Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse oggi sono deboli, meno 1,1 Milano, che è tra le peggiori, Parigi meno 0,80, Londra invariata, Francoforte meno 0,2, l'America perde lo 0,3%. Partiremo in apertura, per quello che riguarda appunto la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, con i dati usciti oggi a livello europeo e a livello italiano, su inflazione da un lato e disoccupazione dall'altro. Vi dico subito che l'inflazione ha ripreso a rialzare la testa, siamo ancora su livelli oggettivamente bassi, però i prezzi sono cresciuti più delle attese anche a livello europeo. Sulla disoccupazione non c'è stato per fortuna un aumento della disoccupazione mese su mese, e questo conforta, si conferma però una disoccupazione che in Italia in questo caso, pur essendo stabile all'8,5%, vede o morde soprattutto i giovani, e che schizza come il tasso di disoccupazione al 28,2% ed è superiore del 7,5% la disoccupazione giovanile in Italia rispetto alla media dell'area europea. E i giovani, dicevo, e il sud, quindi un dato che già era uscito nel bilancio complessivo della disoccupazione nel 2009. Partiremo chiaramente anche dal rinvio operato dal Presidente della Repubblica Napolitano, che non ha firmato la disciplina sull'arbitrato, ricorderete, ce ne siamo occupati molte volte, la nuova procedura di conciliazione arbitrato che di fatto va a incidere sulle norme dell'articolo 18 relative al licenziamento. Il Presidente della Repubblica ha rinviato la normativa proprio per l'aspetto che riguarda l'arbitrato. Il timore è che ci possa essere un principio appunto di non costituzionalità. Vedremo poi le varie dichiarazioni. Il Presidente della Repubblica ha infatti chiesto di realizzare la riforma dei contenziosi sul mercato del lavoro, garantendo però, o meglio, avendo ampie all'interno di un quadro di precise garanzie di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. E comunque questo sarà il tema di apertura, anche perché si lega in generale al mercato del lavoro. Poi i mercati, poi i dati sul turismo, Pasquale come sempre a ridosso, adesso per molti sono già iniziate, ma a ridosso delle festività pasquali, sia l'Enit che Federalberghi hanno diffuso dati e stime. E poi alle 18.10, nella seconda ora del programma, parleremo con uno dei vincitori di questa tornata elettorale. Li ascolteremo un po' tutti nei prossimi giorni per quello che riguarda i programmi economici. Chiaramente mi riferisco al governatore e presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha subito dichiarato molto in questi giorni in tema di federalismo fiscale, di autonomia, anche di rapporto delle banche col territorio. Non le ha mandate a dire. Ecco, sarà nostro ospite per capire come si vuole muovere sulle banche, sui fondi che ha a disposizione, in attesa poi della maggiore autonomia che chiede a livello di risorse che devono restare sul territorio. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. E andiamo sui titoli. Il migliore oggi continua a essere Ansaldo STS, più 1%, grossi acquisti anche da parte di fondi esteri sul titolo, che continua a aggiornare i massimi storici a 15,14 euro. E con Estimarco Electronics è l'unico titolo positivo tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde parecchio Campari, meno 5,30, CIR meno 3,20, Azimut meno 2,60, Popolare Milano meno 2,40, Parmalat meno 2% come Banco Popolare, Unipol meno 1,80 come Geox, Unicredit meno 1,70, Intesa meno 1,60, Lottomatica che perde 1,5% come Telecom e Italcementi. L'1,3 lo perde Enel, Autogrill e il Monte dei Paschi, ma anche Pirelli. L'euro ha recuperato, va detto, non siamo a livello di 1,45, ma rispetto al livello di 1,32, qui era sceso prima dell'accordo europeo sugli aiuti alla Grecia, siamo adesso a 1,35, resta invece sempre abbastanza debole nei confronti del franco svizzero, però siamo 1,42,3. Petrolio a $83, si conferma alto, e questo è uno dei motivi per cui l'inflazione a livello europeo sta tornando a rialzare la testa. $83 è stabile come livello, ma è alto, appunto, siamo ai massimi dall'ottobre del 2008. Allora, volete già sapere di quando sarà ospite il tuttora ministro dell'agricoltura, ma a questo punto presidente del ragionamento, Luca Zaia, alle 18:15. La Germania ha varato una tassa sulle banche, ossia ha approvato di introdurre una tassa sulle banche da destinare a un fondo speciale di prevenzione per far fronte a eventuali future crisi del settore. Con la nuova tassa sulle banche, il governo tedesco prevede di raccogliere fino a 1.200.000.000 di euro l'anno, che verranno, se abbiamo ben capito il progetto, accantonati in caso di altre crisi generate dal sistema bancario. Ancora, la disoccupazione in Germania a marzo cala a sorpresa all'8%, e devo dire che tutti gli economisti avevano previsto un aumento di almeno 7.000 disoccupati, invece è sceso appunto dall'8,1 all'8%. Invece va, e di questo parleremo subito, a record nell'area dell'Unione Europea, a 16, al 10% è il record dal 1998. Ancora due notizie prima di arrivare al nostro primo tema d'approfondimento. Arrivano i correttivi anticrisi per gli studi di settore. La commissione degli esperti per la validazione ha dato l'ok ai correttivi congiunturali. Di cosa si tratta? Cioè, dentro gli studi di settore si tratterà di correggere alcune stime attese di guadagno, e quindi della presunzione del fisco, perché chiaramente c'è stata una leggerissima crisi nel 2009, e quindi i correttivi arriveranno. Tra gli ambiti di intervento, durata delle scorte, minore rigidità nella struttura del rapporto costi ricavi e soprattutto taglio medio dei ricavi. Questa misura riguarda tutti i 206 studi di settore. E poi una buona notizia, perché l'agenzia di rating Moody's, una delle tre che danno i voti, lo spieghiamo ogni volta, ai debiti dei paesi e anche ai debiti delle singole società, ha dato un giudizio particolarmente di buon auspicio sull'Italia, perché ha detto: se l'Italia imboccherà un percorso virtuoso di riduzione del debito pubblico e degli interessi da pagare, soddisferà un prerequisito essenziale per rivedere al rialzo il rating. Ossia, traduco, ha detto Moody's, se l'Italia terrà botta sui conti pubblici e li ridurrà quanto a deficit e debito, potremmo anche aumentare il suo voto sulla sua affidabilità. E non è una cosa da poco, perché più alto è il voto, meno di solito si paga in interessi sui bot, in interessi sul debito. E poi, ha detto sempre l'agenzia di rating Moody's, alcune recenti iniziative del governo creano spazio di manovra per ulteriori risparmi ed incrementi di efficienza. L'Italia è più attrezzata di altri paesi dell'Unione Europea per gestire le sfide che l'aspettano sul fronte dei conti pubblici. A dirlo è stato Alexander Kockerbeck, vicepresidente Senior Credit Officer di Moody's. E allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo del primo tema, primi due temi di apertura, i dati europei sulla disoccupazione e anche sull'inflazione vedono appunto la disoccupazione calare a sorpresa in Germania, la disoccupazione a livello europeo salire invece al record dal 1998 al 10%, e vedono anche, per quello che riguarda l'inflazione, un'inflazione che da febbraio, che era lo 0,9% su base europea, schizza all'1,5%, quasi il doppio per quello che riguarda in questo caso l'area della moneta unica. In Italia l'inflazione invece sale all'1,4% a marzo contro l'1,2% di febbraio, e anche su base mensile c'è un più 0,3%. Motivo? Beh, si chiamano il prezzo dei trasporti, dei carburanti, quindi il petrolio, l'effetto petrolio, ma non solo, anche qualche ritocco tariffario, penso ai treni soprattutto. E allora, questa scheda racconta dati su disoccupazione e inflazione. Spinta spinta dal prezzo dei carburanti, l'inflazione risolleva la testa anche in Italia. Questo mese benzina e gasolio costano infatti il 16% in più di un anno fa, con un aumento solo nell'ultimo mese, rispettivamente del 2,7% e del 4%. Ad essere aumentati sono comunque tutti i trasporti e non solo l'auto. I biglietti del treno costano infatti in media il 15% in più di un anno fa, quelli aerei il 9%, con un forte aumento registrato proprio nell'ultimo mese. L'incremento del gasolio si è trasferito anche sui costi per la casa, che includono il riscaldamento, e che sono saliti dello 0,4% rispetto a febbraio. Al di là di queste voci, marzo è stato un mese senza particolari scossoni sul fronte dei prezzi, con ritocchi minimi per abbigliamento e calzature, mobili, tempo libero e addirittura cali per i costi delle comunicazioni e le spese medico-sanitarie. Più preoccupanti i dati sul mercato del lavoro diffusi sempre oggi dall'Istat e relativi a febbraio. Il numero di occupati è sceso ancora, toccando quota 22.806.000, vale a dire 395.000 lavoratori in meno rispetto a un anno fa e 16.000 in meno rispetto allo scorso gennaio. In pratica, dallo scoppio della crisi nel settembre 2008, si sono persi circa 500.000 posti di lavoro. Anche lo scorso febbraio ad essere penalizzati sono stati soprattutto i più giovani. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni raggiunge ormai il 28,2%, ben al di sopra della media europea, a differenza del dato complessivo, stabile all'8,5%, contro una media del vecchio continente del 10%. Allora, questi dati, soprattutto di chi ha contribuito a far aumentare l'inflazione, nel caso specifico in Italia, appunto i biglietti del treno, 15% in più rispetto all'anno fa, 9% quelli dell'aereo, e poi appunto l'incremento del petrolio che si è tradotto in incremento di benzina e gasolio. Sulla disoccupazione, vedo già molti messaggi, 349-238-6666, ricordiamo sempre che il numero di occupati non è l'opposto del numero dei disoccupati, cioè i disoccupati vanno a misurare chi non lavora sul forza di lavoro complessiva, e l'occupazione invece va a misurare chi lavora su tutta la forza lavoro potenziale, non su quella che lavorava prima. Comunque, detto ciò, si conferma purtroppo una penalizzazione più forte dei giovani e anche nel sud del paese. All'interno di questo dato, se vogliamo, si inserisce poi la notizia più forte di oggi dal punto di vista economico finanziario, appunto il rinvio del Presidente della Repubblica della legge, del disegno di legge che andava a riformare tante cose, non solo l'arbitrato in caso di contenzioso, non introduceva solo l'arbitrato in caso di contenzioso, andava a riformare anche l'apprendistato, la delega per i lavori usuranti, i congedi, tutto un insieme di temi contenuti nel disegno di legge che appunto era passato sia alla Camera che al Senato e che incideva anche sull'articolo 18. Allora parliamo adesso della decisione presa dal Presidente della Repubblica di non firmare questa legge. Il Quirinale ha specificato in una nota che non ha firmato a causa dell'estrema eterogenicità della legge, in particolare della complessità e problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro di indubbia delicatezza sul piano sociale. Traduciamo, su questo una delle due norme del disegno di legge sul lavoro riguarda la nuova procedura di conciliazione arbitrato, che di fatto va a incidere sulle norme dell'articolo 18 relative al licenziamento, cioè le controversie di lavoro possono essere, secondo questa legge, o andare a finire in tribunale, come già avviene adesso, oppure si può arrivare a un arbitrato. E queste clausole, se scegliere l'arbitrato oppure semplicemente l'iter che già si utilizza adesso, nella legge è previsto che possono essere già presenti in fase di contratto, cioè quando uno viene assunto, quando firma il contratto. Il timore sollevato da alcuni che al momento dell'assunzione il lavoratore accetti la via dell'arbitrato, che lo garantisce meno rispetto al contratto che prevede l'articolo 18 e che tutela appunto il licenziamento senza giusta causa, e su questo il Quirinale ha avanzato appunto i suoi dubbi. perché c'è questo articolo che è indicato nel comunicato del Quirinale, in cui appunto si prevede che già al momento dell'assunzione, in deroga ai contratti collettivi, quindi al di là di quello che è il contratto collettivo dei metalmeccanici, degli infermieri, di qualunque categoria voi vogliate, si può comunque avere un contratto a livello individuale, si può stabilire che in caso di contrasto, in caso appunto di contrasto datore di lavoro e lavoratore, le parti si affideranno solo all'arbitrato. Questa cosa qui di stabilire prima dell'assunzione o contemporaneamente con l'assunzione e anche in deroga a quello che prevede il contratto nazionale è il motivo su cui si è, diciamo, concentrata l'obiezione del Quirinale, che in qualche modo ha accolto anche i rilievi dei sindacati dell'opposizione, che dicevano in questo modo di fatto uno verrà invitato, se vuoi essere assunto firma, rinuncia all'articolo 18, firma la parte sull'arbitrato. E infatti per la Repubblica dice l'arbitrato deve garantire la parte debole nella contrattazione, occorre realizzare questa riforma con le garanzie. E poi ha contestato anche questo disegno di legge, ha detto è partito con 9 articoli e poi è finito per avere 50 articoli e 150 commi, contiene le materie più disparate, diventa una legge molto complessa, questa è l'altra obiezione che viene mossa. E lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso perplessità, che è una formula abbastanza dura, visto che viene dal Quirinale, su questo modo di legiferare. Da quello che si è capito, dice, insomma, su una materia così complessa come quella del lavoro, legiferare con un disegno di legge che dentro tiene tutto lascia perplesso il Quirinale. Il ministro Roberto Maroni, nel corso di un'intervista a Sky TG24, sulla decisione del Presidente della Repubblica. Il problema dei cosiddetti decreti omnibus, provvedimenti che nascono su un argomento e poi si arricchiscono di argomenti che c'entrano poco o nulla con il tema. Su questo il Presidente della Repubblica ha sempre mostrato una grande sensibilità, una grande attenzione, così come sulle questioni di copertura effettiva dei provvedimenti. È nel suo potere rimandare alle Camere, non ho nulla da eccepire. È d'accordo con la decisione del... Non la conosco, è di adesso, quindi non ho seguito io il provvedimento. Così il ministro Maroni, e su questo è intervenuto anche in mattinata, metà giornata, il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, e poi è intervenuto anche alle Camere. Allora sentiamo, questo è un tema alla Camera, sentiamo prima la dichiarazione di questa mattina. Il Capo dello Stato chiede un ulteriore approfondimento da parte del Parlamento, che ci sarà, e per parte del Governo proporremo alcune modifiche che mantengano in ogni caso un istituto che lo stesso Presidente della Repubblica ha apprezzato. Potremmo rafforzare ancor più il ruolo delle parti sociali. Ricordo che tutte, oggi ha firmato anche la Lega delle Cooperative, hanno sottoscritto un'intesa tranne la CGIL. Quell'intesa potrebbe anche diventare norma di legge per circoscrivere la possibilità di rinviare all'arbitrato, all'atto dell'assunzione, l'eventuale contenzioso. Inoltre potremmo dare un tale valore alla contrattazione collettiva tra le parti sociali da rinunciare ad una funzione sostitutiva del ministro che era teorica, perché il ministro ha sempre inteso riferirsi, insisto, alle intese tra le parti sociali. Così il ministro Sacconi appunto in mattinata, poi appunto question time, quindi domande e risposte alla Camera. Ha seguito il question time il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, rispetto a queste dichiarazioni, poi il ministro è intervenuto, come sempre avviene anche nel question time, a precisare anche alcuni aspetti. Sì, il ministro Sacconi ha ribadito sostanzialmente nel question time che il rilievo che arriva dal Quirinale è un rilievo che parte però da un apprezzamento di base verso l'istituto dell'arbitrato. Questa è una cosa a cui ha tenuto molto a precisare il ministro Sacconi. Ha ribadito che miglioramenti del governo andranno verso una maggiore partecipazione delle parti sociali e quindi ha confermato che il testo sarà sicuramente rivisto in tempi rapidi, proprio per questo ha fatto visita poc'anzi alla Commissione Lavoro, al Presidente, e ha promesso in tempi rapidi una nuova versione del testo, ma possiamo ascoltare il passaggio di Sacconi proprio al Question Time. Il Governo auspica un rapido esame parlamentare circoscritto alle materie segnalate, anche al fine di consentire la tempestiva attuazione di importanti deleghe come quella in materia di lavori usuranti. Nel merito dei rilievi si osserva quanto segue. Primo, l'arbitrato di equità si realizza nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento che per il Governo già includevano i principi regolatori della materia del lavoro come richiesto dal messaggio e come tali quindi questi possono essere esplicitati. Secondo, il Governo ribadisce la propria fiducia verso la contrattazione collettiva a cui la legge assegna il compito di fare entrare in vigore l'arbitrato coniugando le ragioni dei lavoratori e delle imprese in modo che la scelta delle parti sia sempre libera e responsabile. In considerazione di ciò, il Parlamento potrebbe recepire in legge i contenuti della dichiarazione comune dello scorso 11 marzo con cui tutte le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tranne la CGIL, e di questi giorni l'adesione anche della Lega delle Cooperative, hanno già chiaramente delimitato la clausola compromissoria all'atto dell'assunzione del lavoratore escludendola nel caso di licenziamento. Terzo, tanto il Governo esprime fiducia nei confronti di un sistema sussidiario, libero e pluralistico di contrattazione collettiva che esso potrebbe diventare anche formalmente la sede esclusiva di regolamentazione delle clausole compromissorie, lasciando al Ministro del Lavoro il compito di convocare le parti. Questa dunque l'intervento del Ministro Sacconi nel Question Time. Prima del Question Time avevamo avvicinato Giuliano Cazzola, proprio relatore sul disegno di legge collegato al lavoro, e Cazzola si era detto decisamente disponibile a fare i rilievi su cui si erano precisati gli appunti del Quirinale. Possiamo ascoltare Cazzola. Il mio commento è che sull'articolo 20 io me l'aspettavo, quello che riguarda un'interpretazione autentica relativa al naviglio di Stato. Sull'articolo 31 dell'arbitrato, no, sinceramente io pensavo che, tra l'altro col chiarimento che è intervenuto a seguito dell'avviso comune promosso dal Ministro del Lavoro, mi pareva che alcuni dubbi potessero essere chiariti. In ogni caso, noi, visto che non vogliamo fare dei danni a nessuno, soprattutto ai lavoratori, vogliamo solo rendere più sollecita, più efficace la giustizia del lavoro attraverso anche il potenziamento delle norme di risoluzione extragiudiziale, valuteremo con attenzione le osservazioni del Capo dello Stato, come è doveroso fare. Soddisfatta logicamente della mossa del Quirinale l'opposizione, l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano dice bene questo rinvio del disegno di legge alle Camere, noi presenteremo delle importanti modifiche. Sentiamo Damiano. È un atto che noi apprezziamo, del resto avevamo già avanzato le nostre critiche, avevamo combattuto purtroppo inutilmente in Commissione Lavoro in aula alla Camera per cambiare questo provvedimento. Noi porteremo nuovamente i nostri emendamenti, ci sono molti argomenti, in particolare l'arbitrato secondo equità, che non è l'unico degli argomenti, per il quale noi richiediamo nuovamente che il lavoratore sia messo nella condizione di poter scegliere liberamente la strada della magistratura ordinaria oppure la strada dell'arbitrato, non costretto surrettiziamente ad aderire all'arbitrato. Io insisto nel dire che questo governo con il collegato lavoro ha colpito moltissimi aspetti che riguardano il tema del lavoro, non soltanto l'arbitrato secondo equità, c'è ad esempio una norma molto grave che non abbiamo cancellato perché ovviamente siamo stati respinti come opposizione, che trasferisce il tema della rappresentatività sindacale a livello di territorio. Per farla in breve, possono nascere dei sindacati di comodo a livello territoriale che minano le basi del sindacalismo confederale. Inoltre c'è la reintroduzione di norme come quello dello staff leasing, l'affitto di lavoratori a tempo indeterminato. In sostanza, dall'insediamento di questo governo, a mio parere, c'è un'azione chirurgica, silenziosa, sottotraccia di smantellamento delle tutele dei diritti del lavoro. Così appunto l'esponente del capogruppo del PD in commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano. Grazie Vincenzo Miglietta. Volete sapere le reazioni dei sindacati? Allora, va ricordato, lo fanno alcuni ascoltatori, nessun problema a ricordarlo anche noi, ci mancherebbe, che i sindacati su questo hanno avuto posizioni diverse. Nel senso che la CISL e la UIL erano d'accordo con questo disegno di legge, diciamo per la maggior parte di questo disegno di legge. Infatti oggi il commento di Luigi Angeletti circa un'ora fa è stato: ci auguriamo che appunto che rinvio alle Camere sia l'occasione per rendere coerente il provvedimento legislativo con l'avviso comune realizzato dalle parti. Vabbè, insomma, per cui escludere il licenziamento delle materie oggetto di un eventuale arbitrato, malgrado più d'uno per ignoranza e in cattiva fede, continua a sostenere il contrario. Per cui anche da questo punto di vista c'è un apprezzamento verso la decisione del Presidente della Repubblica, ma non c'è una critica al provvedimento. La CGIL invece ha sempre criticato questa legge e oggi, come immaginabile, ha espresso soddisfazione e apprezzamento per la decisione del Quirinale. Vedremo, ve lo racconteremo come sempre in diretta, come verrà modificato poi questo disegno di legge alla luce dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica. Adesso il meteo, la pubblicità, poi la borsa che ha chiuso con un meno 0,7% a Milano, che ha recuperato rispetto a quando abbiamo iniziato la diretta mezz'ora fa. Infatti si è allineata con il resto d'Europa, tutta l'Europa perde lo 0,6 tranne Francoforte che perde lo 0,12 e Londra che cede un po' meno, lo 0,3%, l'America perde lo 0,2. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ci risentiamo dopo il meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di borsa e giornata finanziaria e poi di turismo. Allora, meno 0,7% Milano. Andiamo con i titoli deboli di tutte le borse europee. Ansaldo si conferma un titolo in crescita al record storico, più 1% a 15,15 euro. ST Microelectronics più 7,3%. Scusate, in più 0,5, infatti non capivo se è mosso il terminale, più 0,5% a 7,31 euro, Fiat più 0,47 a 9,64 euro. Chi va male invece oggi? Campari meno 5,1, CIR meno 2,60, Azimut meno 2,40, Parmalat meno 2, Geox meno 1,80, Unipol meno 1,70, Banca Popolare di Milano meno 1,6, Banco Popolare meno 1,5, l'1,3 lo perdono l'Automatica, il Monte dei Paschi e Autogrill. L'1,1 è il calo di Telecom Italia e anche di Intesa San Paolo e di Talcementi. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Paolo, Campari, se vuoi, che insomma è la peggiore, e qui però ci sono i conti di ieri, se non ricordo male, ma anche Ansaldo, così facciamo la migliore e la peggiore. Per quanto riguarda Campari, il titolo è stato penalizzato fin dall'avvio, all'indomani della pubblicazione dei conti 2009, risultati che sono stati in rialzo dell'8,3% per quanto riguarda l'utile netto e per il 7% sui ricavi, ma che sono risultati inferiori alle attese del mercato, che si aspettava risultati ancora migliori. E inoltre c'è da sottolineare che nell'ultimo mese, proprio in attesa dei conti, Campari aveva guadagnato circa il 10%, quindi diciamo che un po' di delusione per i risultati si aggiunge ad alcuni realizzi dopo la recente corsa e oggi hanno spinto il titolo in ribasso di oltre il 5%. Per quanto riguarda Ansaldo, invece, come ricordavi tu, oggi il titolo ha aggiornato i massimi storici, il massimo di seduta è stato di 15,3 euro e il titolo ha beneficiato della notizia di ieri dell'arrivo di nuove commesse nell'ambito degli ordini assegnati al gruppo Finmeccanica. Nel dettaglio, Ansaldo ha sottoscritto un contratto del valore di circa 42,3 milioni con il comune di Genova e ovviamente questa è una notizia che ha sostenuto il titolo fin dall'avvio, ha chiuso nel rialzo dell'1% e appunto dopo il massimo a 15,3 euro ha chiuso a 15,15 euro. E tra l'altro, con, diciamo, in apertura con molti acquisti a parte dei fondi, ancora per, sui titoli CIR meno 2,7% e anche Azimut, abbiamo detto oggi non è una grande giornata per i gruppi bancari in generale, parlo di Azimut ma parlo anche di Popolare Milano, Unipol, Monte dei Paschi, Unicredit, l'abbiamo detto, fa un po' meglio Mediolanum, meno 0,6, UbiBank, meno 0,4 come fondiere assai, e Mediobank, meno 0,3%. I bancari? Sì, i bancari oggi, dopo un avvio misto, hanno tutti virato al ribasso nel pomeriggio, complice la maggiore incertezza innescata dal dato peggiore delle attese sul mercato del lavoro statunitense, che appunto il dato ufficiale del Dipartimento del Lavoro sarà reso noto venerdì, quando però i mercati saranno chiusi, quindi oggi le anticipazioni della società ADP hanno orientato tutta la seduta, il dato è il risultato peggiore delle attese, quindi ha innescato il nervosismo sui mercati. Inoltre c'è da sottolineare che l'agenzia di valutazione Moody's ha tagliato il rating su 5 banche greche, altra notizia che ovviamente ha aumentato il nervosismo. In particolare tra i titoli bancari italiani c'è da sottolineare la performance del Banco Popolare, che nel pomeriggio anche si è risentito delle vendite, chiudendo in calo di 1,5 punti, ma che in avvio era stata premiata dal ritorno all'utile e al dividendo annunciato ieri con i conti 2009. Ancora titoli, non ho ricordato Fiat, avete ragione, più 0,5, Saipem più 0,1%. Va detto che Saipem è migliorata dopo l'annuncio di una commessa da 700 milioni di euro in Kazakistan, in Gran Bretagna e Norvegia. Esattamente, Saipem era in negativo per gran parte della mattinata, poi ha annullato le perdite riuscendo a chiudere in lieve rialzo, nello specifico dello 0,14%, è arrivata infatti la notizia di nuove commesse per circa 700 milioni che sono appunto in Kazakistan per l'installazione di infrastrutture legate allo sviluppo del giacimento di Kashagan da parte della controllante Eni, e inoltre i contratti sono stati siglati nel Regno Unito con ConocoPhillips e sempre con ConocoPhillips in Norvegia. Allora, i migliori e peggiori, filatura di pollone, migliore più 9,1%, ciccolella, i fiori più 6,6%, speriamo che arrivi la primavera oltre che rialzi ciccolella, TBS Group più 2,9%, ERG più 2,8%, Saras più 2,8%, ebbene anche Seat pagine gialle sul risparmio più 2,6%. I peggiori? Cell Therapeutics meno 11%, Poligrafici Printing meno 7,3%, Campari abbiamo detto, Credem sulle ordinarie meno 5%, EMS meno 4,30%, PMS meno 4,30%. Cell Therapeutics non si riesce a stabilizzare come titolo, Paolo? Cell è sempre molto volatile, oggi è stata la peggiore del listino, un ribasso di oltre l'11%. La notizia di oggi è che la società ha annunciato di aver raggiunto un accordo di vendita per 20 milioni di dollari in azioni privilegiate, che è un'offerta registrata a investitori istituzionali, e tra annunci di queste operazioni e poi le incertezze legate alle autorizzazioni per la commercializzazione del suo farmaco di punta che è il Pixantrone, nelle ultime settimane appunto Cell è stata molto volatile, soprattutto con forti ribassi. Allora, le informazioni per chi è in viaggio e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per gli sms, e poi il turismo, le attese sul turismo pasquale e ancora l'intervista al governatore, che sarà nostro ospite della Regione Veneto, Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. minuti. Allora, Paolo Paronetto, concludiamo con i titoli. Vogliono sapere gli ascoltatori se c'è qualche novità specifica su Geox, che è un po' di giorni in calo, se ti risulta, e DST Microelectronics in effetti chiedono. Sì, per quanto riguarda Geox, la società è in calo, ha registrato alcune flessioni nelle ultime sedute, in particolare a penalizzare il titolo e l'intero comparto è stato qualche giorno fa, sono stati i conti di TOZ, che sono risultati peggiori delle attese. Comunque da sottolineare che questo di oggi è il secondo calo consecutivo, che era avvenuto però dopo un avvio di settimana con due sedute positive, quindi si può parlare anche di un movimento tecnico. Per quanto riguarda invece ST Microelectronics, i fattori sono due: da una parte il settore tecnologico va bene ormai da un paio paio di sedute, oggi è stato uno dei pochi sottoindici europei a chiudere in positivo con un rialzo dello 0,6%, in particolare negli ultimi giorni alcune società hanno diffuso stime sul mercato nel secondo trimestre migliori delle attese. Inoltre in mattinata si era diffusa un po' di incertezza in seguito ad alcune notizie riportate dalla stampa che gettavano un po' un'ombra sulla possibilità che la società distribuisse un dividendo, poi è arrivata invece a stretto giro la precisazione proprio di ST che ha precisato che la cedola sarà decisa dall'assemblea che sarà convocata nella settimana del prossimo 12 aprile, quindi ha rassicurato sul fatto che ci potrà essere una distribuzione di un dividendo. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. Mentre l'America continua a migliorare, adesso è un meno 0,1% e anche l'euro è leggermente più forte, 1,35 e 15. Adesso cambiamo tema, parlando, è appena uscita un'agenzia, ve la leggerò, alcuni di voi si arrabbieranno, di fisco, di dichiarazione dei redditi e poi anche invece di vacanze pasquali. Allora, la metà dei contribuenti italiani non va oltre un reddito dichiarato di 15.000 euro l'anno. Il 70% dei contribuenti italiani non va oltre un reddito dichiarato di 20.000 euro l'anno. Da che capisco che chi dichiara 30, 40 mila, 50 mila euro lordi, 60 mila euro lordi l'anno appartiene alla categoria dei ricchi. Chi guadagna più di 100.000 euro lordi l'anno? L'1% della popolazione e paga praticamente il 18% totale dell'imposta. Comunque, queste sono le anticipazioni statistiche delle dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2008, quindi quelle presentate nel 2009, che circa 10 minuti fa ha diffuso il Dipartimento delle Finanze. Lo so, sono cose che lasciano molti dubbi, ma appena avremo il dato complessivo lo commenteremo. Devo dire purtroppo che non c'è stato nessun miglioramento, sono dati che già ricordavamo, solo 120.000 italiani dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno. Vabbè, vediamo cosa faranno gli italiani per il ponte pasquale, ponte insomma, per le festività pasquali. Nel 2009 si sono registrati negli alberghi italiani 240 milioni di euro di hanno fatto registrare 240 milioni di euro di presenze, ossia il 4,5% in meno rispetto al 2008. Sì, ammetto che la notizia non è scritta in un italiano corretto. Insomma, le presenze alberghiere hanno fatto registrare un giro d'affari di 240 milioni di euro, meno 4,5%. Questo il dato diffuso oggi dall'Osservatorio Turistico Alberghiero di Federalberghi, un campione di oltre 1.100 alberghi. I pernottamenti degli stranieri sono diminuiti del 6,4%, passando da 103 milioni a 110 milioni. Quelli degli italiani sono diminuiti del 2,9%, passando da 141 milioni a 137 milioni. E il saldo della bilancia valutaria turistica ha registrato un meno 13%, passando da 10 miliardi, è un saldo ancora inattivo, per cui non c'è deficit, ma da 10 miliardi di euro nel 2008 siamo scesi a 8 miliardi e 860 milioni, perché gli italiani hanno speso per vacanze all'estero quasi 20 miliardi di euro, 19,9 nel 2009 rispetto ai 20,9 miliardi, cioè un miliardo in meno hanno speso, dai, rispetto al 2008. Gli stranieri hanno speso invece un po' di meno, hanno speso 28,8 miliardi contro i 31 miliardi di euro del 2008. E il commento del presidente di Federalberghi, Bernardo Bocca, è stato: insomma, siamo tornati in una botta sola ai livelli del 2005. Sempre in tema, che non è una bella notizia chiaramente, sempre in tema di turismo, a Roma si è tenuto un incontro promosso dall'ENIT, che è l'Agenzia Nazionale per il Turismo, per appunto anticipare l'andamento della prossima stagione turistica, le mete più ricercate, L'Italia viene definita come una delle mete preferite dagli stranieri. Vabbè, speriamo che sia vero. Comunque sentiamo Matteo Marzotto, presidente dell'Enit, al microfono della nostra Paola Nania. È possibile tornare a un livello come lo era nel 2008? Significa che la crisi potrebbe essere superata completamente? No, non significa che la crisi è superata, significa che i flussi possono tenere, anzi stanno dimostrando di reagire. Diversa è invece un'analisi sui fatturati, quindi potremmo avere delle quantità di persone che si muovono, che spendono anche più tempo in Italia, ma che magari accedono a dei livelli di servizio diciamo inferiori, quindi diciamo l'analisi deve essere un po' ragionata. Secondo me, come cappello su tutto, dire che ritorniamo a dei livelli quantitativi simili a 2008 è molto importante per dire che non si uscirà dalla crisi, secondo me siamo già usciti in un certo qual modo dalla crisi, è una nuova fase di tutti i mercati, di tutti i comparti, anche della fase anche del mercato del turismo. Quindi potremmo arrivare a 40 milioni di turisti stranieri in Italia per il 2010? Io spero che li potremo anche superare, ma l'Italia ha le potenzialità per crescere senz'altro. Per quanto riguarda la Pasqua 2010, quali sono i paesi che vengono maggiormente in Italia? Ma la Germania rimane sempre il paese numero uno, però sta dimostrando di avere un pochino più di ristagno. L'Austria è molto dinamica, il Regno Unito, l'Inghilterra ha qualche difficoltà legata al cambio, però verso l'Italia segna delle crescite intorno al 5-5,5%. Negli Stati Uniti ci aspettiamo delle buone crescite. Per quanto riguarda invece l'estate, è già possibile fare previsioni di flusso? È chiaro che quando parliamo di Pasqua, poi diciamo la Pasqua apre un po' la stagione più lunga e più importante per l'Italia, che è la stagione estiva. Quindi quello che dico è abbastanza coerente anche come attesa per il periodo estivo, diciamo per la vera stagione estiva. Ecco, la crisi però ha lasciato un segno, sembra almeno, quello di vacanze diverse, sì. Magari più brevi, sì. Last minute e così. Sì, è vero. Più che altro con mezzi propri, più che altro all'ultimissimo momento, molto anche organizzate autonomamente, quindi attraverso internet, e poi un aumento considerevole, anche se secondo me era una tendenza che era già iniziata, un po' una tendenza culturale a fare delle soste più brevi ma più numerose. Auguriamoci che sia così, che i turisti stranieri, sempre più attenti al rapporto qualità-prezzo, vedono nell'Italia una delle mete preferite, anche perché il nostro paese da leader mondiale nel 1970 è scivolato al quinto posto come destinazione più vista, ci hanno superato Francia, Spagna, America e Cina. Le dichiarazioni dei redditi stanno uscendo a raffica, le agenzie sull'anticipazione dell'Agenzia delle Entrate sul modello unico 2009. Allora, posso essere ancora più preciso, perché il reddito medio dichiarato dagli italiani è di 18.873 euro lordi, e quindi le imposte pagate agli italiani sono di 4.700 euro in media all'anno. Lombardia ha il reddito più alto, 22.500, Calabria quello più basso, 13.470. E ancora, metà dei contribuenti dichiara meno di 15.000 euro l'anno, e due terzi non superano i 20.000 euro l'anno, solo l'1% dichiara più di 100.000 euro l'anno. Posso essere più preciso, chi in questo paese dichiara più dell'1% sono 382.000 persone che dichiarano più di 100.000 euro l'anno. L'anno di queste 380.000, 220.000 sono o dipendenti o pensionati, quindi diciamo lavoro autonomo senza voler fare nessuna criminalizzazione, ma insomma, di lavoratori autonomi che dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno in tutto il paese ce ne sono 160.000. Ultimo dato, chi dichiara più di 200.000 euro lordi l'anno sono solo lo 0,2%, quindi ero troppo ottimista prima. Si tratta di 75.000 persone, di cui 62.000 sono dipendenti o pensionati, per cui anche qui il lavoro autonomo che dichiara più di 200.000 euro lordi l'anno fa capo a praticamente 13.000 persone. Inutile ricordare che ci sono 94.000 barche sopra i 10 metri e 1 milione di auto circolanti sopra i 2.500 cc di cilindrata. Il GR 349-238-6666 per i vostri sms, e poi nostro ospite, il neo presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per parlare di economia. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, stanno continuando a uscire le agenzie sui dati del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi nel 2009. Per chi si fosse appena messo in collegamento, abbiamo già ricordato come vi siano poche novità, nel senso che metà dei contribuenti italiani dichiara meno di 15.000 euro lordi l'anno, i due terzi comunque non superano i 20.000 euro lordi l'anno, e chi dichiara più di 100.000 euro lordi l'anno sono 380.000 persone, di cui appunto 220 sono dipendenti o pensionati, quindi 160.000 lavoratori autonomi. Chi dichiara più di 200.000 euro lordi l'anno sono 75.000 contribuenti in tutto il paese, di cui 62.000 dipendenti o pensionati, e quindi a questo punto solo 13.000 lavoratori autonomi. Sta buttando altre notizie appunto l'agenzia, il Dipartimento delle Finanze. Allora, già confermata la Lombardia in testa con il reddito più alto, la cosa forse più interessante riguarda le differenze tra lavoratore dipendente, pensione e lavoratore autonomo da impresa. Allora, il reddito medio da lavoro dipendente è pari a 19.640 euro dichiarati, più 2% rispetto all'anno precedente. Quello da pensione è pari a 13.940 euro, più 3,7%. I redditi di impresa sono a 18.140 euro, quelli da lavoro autonomo sono a 38.890 euro. Calano i redditi da impresa, meno 0,5%, e anche, mentre i redditi da lavoro autonomo hanno avuto un incremento del 2,6%. Secondo il commento appunto del Dipartimento, la crisi economica che è iniziata nella seconda metà del 2008 mostra i suoi effetti nei confronti delle attività di impresa, ma non ancora nei confronti dei lavoratori autonomi. I dati sono appunto della dichiarazione 2009 sui redditi del 2008, per cui questo era abbastanza presumibile. La composizione: la quota complessiva dei redditi da lavoro ha fatto l'80% del totale, poi redditi da partecipazione, poi imprese, poi lavoro autonomo 4%. Questi dati che abbiamo, e adesso come sempre con lo stacco delle nostre notizie in breve, ripercorriamo alcune notizie principali di questa giornata economico-finanziaria. Poi, come promesso, abbiate pazienza, fra 4 minuti intervisteremo ancora Ministro dell'Agricoltura Zaia e Neopresidente della Regione Veneto. Ci chiede infatti di ricordare a chi si fosse appena messo in collegamento le notizie principali. Beh, abbiamo aperto con il dato sulla disoccupazione in Europa e in Italia. In Europa è cresciuta nell'area dei 16 paesi al 10%, record dal 1998. In Italia, per fortuna, il dato a febbraio è stabile, anche se non è bello, all'8,5%. La disoccupazione, però persi 395.000 posti di lavoro a febbraio, meno 1,7%, questo rispetto al febbraio del 2009, c'è un meno 0,1 rispetto a gennaio. La cosa che preoccupa di più, come ricordavamo, è il fatto che insomma la disoccupazione giovanile è schizzata al 28,2% in Italia, un dato superiore del 7,6% di tanto rispetto alla media dei 27 paesi dell'euro. Altra notizia riguarda l'inflazione, che complice il prezzo del petrolio stabile a $80 al barile e complici gli aumenti di benzina e diesel. L'inflazione è tornata a crescere. In Italia va all'1,4% a marzo contro l'1,2% di febbraio. Più 0,3% mese su mese. Cresce anche in Europa l'inflazione. È salita all'1,5% contro lo 0,9% di febbraio. Va fatto notare che in questo modo l'Italia non è più, pur avendo avuto una crescita dell'inflazione, non è più sopra la media europea, se appunto il dato è di l'1,5%, noi siamo all'1,4%. Della contestazione della non firma del Presidente della Repubblica al disegno di legge che riforma il mercato del lavoro, l'articolo 18, l'arbitrato, abbiamo parlato nei primi 20 minuti con tutte le dichiarazioni del Ministro Maroni, del Ministro Sacconi, del presidente della Commissione Lavoro, deputato PD Damiano. Insomma, abbiamo detto adesso il governo ha garantito che andrà a modificare le parti più contestate dal Presidente della Repubblica, il fatto che l'arbitrato possa essere imposto prima soprattutto, e l'eccesso di norme, di elementi presenti in questo DDL in una materia così delicata come il mercato del lavoro. Allora, le informazioni sul traffico, così anticipiamo leggermente l'intervista a Luca Zaia, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vedo molti messaggi sulle dichiarazioni dei redditi, cambiamo tema, tanto torneremo a parlare anche delle dichiarazioni dei redditi. Allora, inizia oggi un nostro viaggio, poi vedremo chi accetterà, chi vuole viene e chi non vuole non viene, con i vincitori delle regioni, le regioni più importanti, soprattutto del paese. Il programma è un programma di economia e resta un programma di economia, quindi chiederemo ai neopresidenti o governatori, come volete chiamarli, quali siano le iniziative di carattere economico, di politica economica che vogliono intraprendere da subito, quindi nel pieno dei loro poteri. Messaggio al 349-238-6666. E allora iniziamo questo viaggio con uno dei vincitori che era già sicuro, va detto anche prima, era dato per certo, ma insomma non in questa misura, 60,15% delle preferenze in una regione come il Veneto, avete capito, stiamo parlando, oltre che di una regione simbolo nella geografia produttiva del paese, stiamo parlando del presidente, neopresidente della regione Veneto, Luca Zaia. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera e complimenti, come facciamo a tutti gli eletti. Allora, veniamo alle priorità. Lei ha molto dichiarato in questi giorni, soprattutto in tema di federalismo, è immaginabile, ed era immaginabile vista il partito a cui appartiene. Però vorrei capire adesso operativamente quali sono le priorità che si è dato a livello di governo economico della regione e scelte economiche. Fermo restando, però chiederei una conferma che, se non ricordo male, la Regione Veneto, pagata la parte sanitaria che è di pertinenza regionale, ha come autonomia di bilancio, restano diciamo nel portafoglio circa 1 miliardo di euro. Sì, dice bene dottor Barisoni, noi abbiamo un bilancio di 10 miliardi e 600 milioni di euro e il 95% di questa cifra è già spesa vincolata dalla spesa sanitaria e dagli stipendi e dalle spese fisse che dobbiamo pagare. Allora, con 1 miliardo, lo dico in maniera molto tranquilla anche a chi scrive al 349-238-6666, non si riesce a fare moltissimo in una regione che ha l'11% della popolazione nazionale, contribuisce al 20% del PIL italiano, che ha avuto nel 2009 47.000 posti di lavoro che se ne sono andati, il PIL della regione Veneto ha seguito quello nazionale, meno 4,8%, e nei primi 9 mesi del 2009 hanno superato i disoccupati per la prima volta quota 100.000, assunzioni diminuite del 50% nella meccanica, di oltre il 30% in diversi altri comparti manifatturieri, nelle costruzioni la contrazione è stata del 25%, nei servizi complessivamente del 17% e anche nell'attività finanziaria meno 44%. Concludo dicendo che il valore aggiunto dell'industria manifatturiera ha fatto un meno 13%, e anche le costruzioni hanno fatto un meno 4,5%. C'è un problema di tenuta dell'occupazione che riguarda comunque il governo nazionale, ma anche di delineare le nuove strategie per quello che può essere il ruolo di coordinamento della regione, governatore Zaia. Assolutamente sì, da un lato dobbiamo guardare con attenzione le politiche degli stati membri, in quanto il calo dei consumi, che è esattamente la conseguenza di questa grande crisi internazionale, porta difficoltà nei mercati, soprattutto a contesti territoriali come quello veneto e quello del nord, dove si produce il 20% del PIL nazionale. Detto questo, c'è da dire che rispetto a interventi diretti noi dobbiamo garantire da subito l'accesso al credito, ovvero la possibilità per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per i nostri lavoratori, avere ancora come riferimento sociale quel socio occulto, come dicono i nostri imprenditori, che è rappresentato dalla banca. E banche che con questa crisi spesso si sono date alla macchia, non si sono più viste sul mercato. Allora, lei viene subito al punto delle banche, su cui ha molto dichiarato in questi giorni, nel caso specifico sul gruppo Unicredito, se sarà una banca più è locale più ci piace. Ha risposto in maniera indiretta il numero uno Profumo, Alessandro Profumo, dicendo: beh, noi abbiamo azionisti in tutto il mondo e anche le fondazioni bancarie, in caso specifico c'è la fondazione Cari Verona dentro Unicredito. Insomma, che cosa chiede al mondo bancario, o è un, diciamo così, una dialettica rivolta solo al gruppo Unicredito? No, guardi, io fra l'altro ho molta stima del dottor Profumo e va riconosciuta la sua grande attività, la sua grande ovviamente azione per il sistema di credito italiano e quindi anche internazionale. Dico solo che vediamo con chiarezza che le banche del territorio, penso alle banche di credito cooperativo, penso alle banche popolari e anche Unicredit, piuttosto che Intesa San Paolo, insomma tutto quello che c'è sul panorama, sul mercato, sono sempre più attive, proattive, vicino ai nostri imprenditori, se hanno le radici ben profonde, ben ancorate sul territorio. Le faccio un esempio che può rappresentare una banalità, ma dà l'idea. Un benefondi per un imprenditore fatto con una telefonata a persone che conoscono l'imprenditore, che conoscono il territorio, ha un senso. Far girare una telefonata e farla arrivare, che so, alle Isole Vergini o in qualche paradiso fiscale per avere la risposta dopo qualche giorno, significa sapere già che il nostro tessuto sociale, che è della piccola e media impresa, che è un tessuto sociale dove conta molto il saper fare degli imprenditori, dove comunque conta l'ingegnosità di questi personaggi, ovviamente però escono dagli schemi dei computer, dei software complessi dei multinazionali. E questo per quello che riguarda il mondo bancario. Concretamente lei cosa pensa di fare? Quella che si chiama in gergo moral suasion, cioè un'attività così di di pressione politica sulle banche per o arrivare ad accordi veri e propri, regione, banche e imprenditori, intesi sia come Confindustria, ma immagino anche Confartigianato e Confesercenti. Guardi, entrambe, la moral suasion da un lato, gli accordi dall'altro, quindi un'azione di lobby. Direi comunque mettere a disposizione risorse, mettere a disposizione ovviamente l'istituzione Regione del Veneto al sistema di credito bancario che vuole approfittare di tornare ad essere presente sul nostro territorio. Noi dobbiamo tutto agli istituti di credito, questo dobbiamo ricordare, i veneti devono essere coscienti di questo. Senza un sistema di credito il fenomeno veneto, il fenomeno dell'imprenditoria veneta non esisterebbe. Per cui dobbiamo tornare a quei livelli che abbiamo lasciato 2 o 3 anni fa, che erano livelli di altissima collaborazione tra imprenditori e banche. Ricordiamo che l'80% appunto delle nostre imprese ha meno di 20 dipendenti. Allora, poi arriviamo alle proposte più programmatiche. Vedo che alcuni ci scrivono al 349-238-6666 sulla parte di maggiore federalismo che lei ha già annunciato. Vorrei restare però, questo è un percorso un po' più lungo, vorrei restare su quello che si può fare da subito. Torniamo al di là del rapporto con le banche, alla disponibilità che avete. Meno di 1 miliardo, se lei dovesse individuare le priorità per evitare, come lei sa meglio di me, che questi soldi poi finiscano nel cosiddetto effetto pioggia, quindi vanno un po' dappertutto e non servono a nulla. Ma guardi, è come avere molti figli e molte bocche da sfamare a tavola. E noi dobbiamo occuparci comunque di investimenti nella sanità, nelle attività produttive, pensare alle famiglie, pensare al sociale, il turismo, siamo la prima regione turistica d'Italia, all'ambiente, ai trasporti, alla viabilità. Lei capisce che ovviamente qui stiamo tentando di addobbare un letto matrimoniale e al posto della coperta matrimoniale abbiamo un fazzolettino, una pochette. Questa è la nostra possibilità di spesa. Allora qual è la via d'uscita? La via d'uscita è quella di dire quello che abbiamo detto noi e che il 60% dei veneti hanno premiato, ovvero prima il Veneto, cioè vogliamo testare da subito il federalismo fiscale del governo da un lato e l'autonomia negoziata dall'altro. E adesso veniamo appunto a quello che volete negoziare. Intanto i tempi, perché questa crisi ha dei tempi molto veloci. Lei ritiene di poter ottenere maggiore autonomia o nuove competenze, come le ha chiamate su scuola, energia, in che tempi con il governo centrale? Guardi, noi saremo lì a non perdere un secondo, sarà il governo poi a cercare di starci al passo, noi saremo lì a pungolare. Oggi parlo ancora in questa veste di doppio ruolo, però è altrettanto vero che io farò lobby e mi riterrò, come dico sempre, prima dicevo sono l'amministratore delegato dell'agricoltura italiana, oggi dico sono l'amministratore delegato del Veneto, per cui la mia azienda deve portare a casa il massimo. È una partita questa che se non la si vince va a finire male, nel senso che noi non abbiamo più risorse. Lei da un lato ha detto noi abbiamo a malapena 1 miliardo di euro per tutte le nostre necessità, ma le voglio anche ricordare che abbiamo 12 miliardi di euro di tasse che ogni anno paghiamo a Roma e Roma ci rimanda poco sul territorio in qualità di beni e servizi. E questo è un tema classico del federalismo fiscale. Per inciso, per quanto tempo manterrà il doppio incarico Ministro dell'Agricoltura e Governatore della Regione? Guardi, non glielo so dire. Il problema non è assolutamente un problema organizzativo, perché le due cose si riesce a gestirle, però è un problema estetico. Per cui mi diranno coloro che mi hanno nominato quando sarà opportuno fare anche questa scelta. E comunque i veneti e gli agricoltori non si preoccupano, perché comunque sono assolutamente seguiti. Sì, noi stiamo sempre dell'idea che sia meglio comunque fare una delle due, ma insomma immaginiamo. Assolutamente. Perché insomma tutte e due è un po' complicato farle, visto poi la presenza che richiede sul territorio. Certo. Un'altra obiezione che arriva, o che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, è la seguente: al di là dell'esito elettorale del comune di Venezia, dove Brunetta è stato sconfitto, però c'è chi teme, e questa non è un mistero, è stata anche la polemica velata, strisciante dell'ex governatore Galan, e dice insomma attenzione, qui si rischia un eccesso di localismo, la metto giù così, per cui meno Venezia e meno ruolo di Venezia, capitale di una regione importante che da sola vale quanto il PIL della Grecia, insomma meno Venezia capitale, molto localismo, il Veneto perde la sua non solo ambizione ma anche la sua storia di porta verso l'est, porta verso il Mediterraneo, verso i mercati che appunto guardano più ad oriente, e di flusso di integrazione. Ma guardi, io rappresento un partito che di questi temi parlava prima che gli altri si accorgessero di essere al mondo. Come dice bene l'imperatore Adriano nelle sue memorie, dice che il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso. Evidentemente i nostri detrattori si sono accorti che esiste il Veneto, esiste il resto del mondo. Perché questo tema non mi sembra che la interessi molto o la preoccupi molto. Io ho portato il primo G8 della storia dell'agricoltura in Veneto, per cui non ho proprio bisogno di lezione da parte di chi non ha fatto nulla. Senta, il tema, l'ultima domanda sul tema fiscale, visto che ce lo chiedono, sarà pensabile intanto arrivare a forme di così sgravi fiscali su base regionale, secondo lei? Beh, è auspicabile, ovviamente di tutto compatibilmente con le risorse, ma non glielo dico perché abbiamo appena votato. Mm-hmm. Queste frasi le ho dette sempre ai miei cittadini, i veneti lo sanno, io ho fatto una campagna non facendo promesse di più soldi per tutti, più lavoro per tutti, ma dicendo, cari signori, ricordate che il bilancio è questo. E il 99% dei veneti ad esempio ignorava il fatto che noi abbiamo un bilancio che ormai è come è mummificato, certo, non più aggredibile, per cui parlare di investimenti è ovvio, tutti possono proporre la bella amministrazione, ma questo è qualcosa che noi consideriamo già di ordinario. Poi bisogna inaugurare invece la stagione delle riforme. La vera sfida in Veneto non è fare una strada in più, la vera sfida è avere i soldi per fare quella strada. E ci chiedono gli ascoltatori, così concludiamo, se a questo punto si farà più aspra, mettiamola così, la competizione per le Olimpiadi, cioè la candidatura di Venezia verrà, perché quello è un tema anche economico, sappiamo che voilà, non sono le Olimpiadi, verrà da lei spinta? Ah beh, assolutamente sì, io sono un profondo sostenitore delle Olimpiadi 2020, le dico anche di più, Roma ha fatto già un'edizione delle Olimpiadi e ha già tentato 3 volte di una candidatura che è andata ovviamente non a buon fine, questa sarebbe la 4ª volta, questa volta tocca ai veneti. E sento che però già sta parlando da governatore oltre che da ministro. Diciamo che io ho sempre parlato da Veneto. Va bene, allora in bocca al lupo di nuovo. Grazie. E chiaramente poi noi staremo qui come abbiamo sempre fatto a verificare, a registrare le varie iniziative che saranno prese, ma va dato appunto il beneficio della possibilità. Grazie al governatore Luca Zaia. Grazie, buonasera a tutti. E con questa intervista si conclude la puntata di oggi a Focus Economia. Non potevamo parlare, lo dico chi scrive, degli OGM. Zaia è contrarissimo, abbiamo già avuto ospite, ma qui parlava come presidente obiettivamente della Regione Veneto. Da Sebastiano Berigioni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, La passione si sente.